Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, così è scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo 5 dell'Epistola, precisamente i versetti che vanno dal 12 al 19. Quindi così è scritto: perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non v'è legge. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella d'Adamo, il quale è il tipo di colui che doveva venire. Però la grazia non è come il fallo, perché se per il fallo di quell'uno molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono fattoci dalla grazia dell'unico uomo Gesù Cristo hanno abbondato verso i molti. E riguardo al dono non avviene quello che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato, poiché il giudizio da un unico fallo ha fatto capo alla condanna, mentre la grazia da molti falli ha fatto capo alla giustificazione, perché se per il fallo di quell'uno la morte ha regnato mediante quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Poiché, siccome per la disubbidienza di un solo uomo molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Dunque, noi siamo stati costituiti giusti. Siamo appunto tra quei molti di cui parla appunto l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma. Costituiti giusti. Perché? Perché prima eravamo peccatori, ossia eravamo schiavi o servi del peccato, eravamo sotto il peccato e il peccato ci signoreggiava. Ma Dio, nella sua grande misericordia, si è compiaciuto di farci grazia e dunque ci ha costituiti giusti, perché ci ha giustificati. Si sono adempiute così le scritture. Infatti nel capitolo 53 di Isaia è scritto in merito all'unto dell'Eterno, è scritto quanto segue. L'unto dell'Eterno, sapete che era chiamato dal Signore tramite i profeti il mio servo, il mio servitore. Ebbene, sta scritto in Isaia, al capitolo 53, versetto 11, egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Dunque, l'unto dell'Eterno, il servitore di Dio, che è il giusto, ci ha resi giusti. Infatti dice la Sacra Scrittura: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Dunque siamo stati giustificati per il sangue di Cristo. Infatti, dice l'Apostolo Paolo, sempre ai Romani, tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Qui è, Paolo sta parlando dell'ira a venire. Dunque siamo stati giustificati e siamo tuttora giustificati per il sangue prezioso di Cristo Gesù, l'agnello di Dio. Ora, è bene sempre ricordarlo questo, perché noi siamo stati giustificati e siamo giustificati non per le opere, non per opere, ma per grazia. E se è per grazia, non è per opere. Infatti è scritto: il giusto vivrà per fede o per la sua fede. Noi abbiamo ricevuto da Dio la sua giustizia. Infatti è chiamata la giustizia che viene da Dio, che è basata sulla fede, non sulla fede e sulle opere, no, sulla fede. Viene dalla fede, non viene dalla fede anche dalle opere, no, viene dalla fede. Infatti è scritto che il giusto vivrà per fede. Ora la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo, cioè nella buona novella che Gesù è il Cristo. In esso, nell'Evangelo, è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ecco perché noi siamo stati costituiti giusti quando abbiamo creduto nell'Evangelo. In quel preciso momento la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia e siamo dunque stati costituiti giusti. Quale grazia, quale meravigliosa grazia il Signore ci ha elargito costituendoci giusti. E tutto ciò in virtù di ciò che Cristo Gesù ha fatto. Infatti siamo giustificati per il suo sangue. E naturalmente quando parliamo del sangue di Cristo dobbiamo parlare della sua morte espiatoria, perché egli sparse il suo prezioso sangue sulla croce, sulla quale egli fu crocifisso affinché si adempissero le scritture, secondo le quali appunto egli doveva essere trafitto. Vi ricordate infatti che cosa aveva detto il profeta Isaia? Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ecco dunque che Gesù, sotto il governatore Ponzio Pilato, che era governatore della Giudea, fu crocifisso, annoverato tra i malfattori, perché egli fu crocifisso in mezzo a due malfattori, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Lui che era il giusto, che non aveva conosciuto peccato, nella cui bocca non era stata trovata frode, che non aveva commesso violenza, eppure Gesù fu ucciso, fu condannato a morte, prima dal sinedrio giudaico, poi poi Ponzio Pilato, il governatore, dietro richiesta dei giudei, sentenziò che Gesù doveva essere crocifisso, benché Ponzio Pilato non trovò in lui nulla che fosse degno di morte. Infatti inizialmente Ponzio Pilato lo voleva liberare, ma si dovevano adempiere le scritture e quindi Dio diresse la cosa affinché Ponzio Pilato poi rimanesse persuaso, fosse d'accordo con il popolo che gridava sia crocifisso. E dunque Ponzio Ponzio Pilato, sentenziò che fosse fatto quello che voleva il popolo e sentenziò che Gesù fosse crocifisso. Ecco dunque che Gesù dunque fu crocifisso. Fu crocifisso a motivo dei nostri, a cagione delle nostre offese, fu crocifisso per i nostri peccati, perché egli doveva morire per i nostri peccati. E questo è quello che avvenne. Ora, quando parliamo della morte del Signore nostro Gesù Cristo, dobbiamo anche parlare della sua ubbidienza. Perché? Perché l'Apostolo Paolo che cosa dice ai santi di Filippi? Dice così: ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. Dunque vedete come Gesù, il Figlio di Dio, si fece ubbidiente fino alla morte della croce. Perché egli ubbidì all'Iddio e Padre suo. Infatti, il Padre gli aveva dato un ordine e Gesù lo eseguì. Infatti Gesù disse queste parole un giorno, disse: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi, nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla, ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Quindi lui ricevette un ordine dal Padre suo e quest'ordine egli lo eseguì, quindi egli si mostrò ubbidiente. Questo è meraviglioso. Quindi in virtù dell'ubbidienza del figliolo di Dio, che mostrò verso il Padre suo, noi oggi diciamo che siamo giustificati. Quindi siamo stati costituiti giusti in virtù dell'ubbidienza di Cristo Gesù. Ora, ciò che Cristo Gesù ha compiuto morendo sulla croce per i nostri peccati fa parte del piano che Dio ha formato in se stesso avanti i secoli, prima della fondazione del mondo. Perché la morte di Gesù non fu un evento accidentale. La morte di Gesù fu un evento ben preordinato da Dio prima della fondazione del mondo. Infatti Gesù è chiamato dall'Apostolo Pietro in questi termini. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Pietro. Sapendo, nella sua prima epistola, leggo dal versetto 18, al capitolo 1, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come d'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Dunque, Cristo Gesù è stato preordinato prima della fondazione del mondo, ad essere offerto in sacrificio per i nostri peccati. Il suo sacrificio espiatorio, o la sua morte espiatoria, dunque, fa parte del piano che Dio ha formato prima della fondazione del mondo. A questo punto, quindi, una domanda si impone: ma se Cristo Gesù è stato ben preordinato prima della fondazione del mondo, ad essere offerto per i nostri peccati. O è stato preordinato a dare se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quel profumo d'odor soave, un'espressione che ho preso dall'epistola di Paolo agli Efesini. Ma allora, il peccato commesso da Adamo rientrava anch'esso nel piano, o faceva parte anch'esso del piano che Dio ha formato prima della fondazione del mondo? Evidentemente sì, questa è la risposta. In sostanza, come l'ubbidienza del figliuolo era stata ben preordinata prima della fondazione del mondo, così anche la disubbidienza di Adamo, il primo uomo, era stata preordinata prima della fondazione del mondo. Perché non può essere che ciò che Cristo ha compiuto era stato preordinato prima della fondazione del mondo, mentre quello che Adamo ha compiuto non era stato preordinato prima della fondazione del mondo. Perché Gesù Cristo, lo ripeto per l'ennesima volta, fu preordinato prima della fondazione del mondo ad offrire se stesso a Dio per i nostri peccati. Comprendete? Il sacrificio di Cristo nel piano di Dio non è che è arrivato dopo che Adamo ha peccato. Non è che il Signore è stato preso di sorpresa dalla disubbidienza di Adamo. Non è che il Signore Dio è andato nel panico perché era la disubbidienza di Adamo qualcosa che non aveva previsto e quindi lo ha messo in difficoltà, è entrato in confusione, ha cominciato a pensare a qualche rimedio, al rimedio migliore. No, fratelli nel Signore, faceva parte tutto del piano di Dio, un piano meraviglioso. Stiamo parlando di cose, fratelli, per noi troppo alte. Come i cieli, avete presente che sono alti al di sopra della terra, sono cose così alte per noi. Noi abbiamo una mente limitata, noi abbiamo una vista limitata, noi abbiamo un'intelligenza limitata, ma non così Dio ha un'intelligenza infinita, ha una sapienza infinita. Dio è Dio non è un uomo come noi quando appunto consideriamo Dio non è che lo possiamo equiparare a qualche uomo, non possiamo nemmeno pensare che sia come qualche uomo, ma nella maniera più assoluta, Dio è Dio. Dio non è un uomo come noi. Quindi, chi ha conosciuto la mente del Signore? Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi, incomprensibili le sue vie. Ma le sue vie sono al di sopra delle nostre, come i cieli sono alti al di sopra della terra, fratelli del Signore. Non ce lo dimentichiamo, come anche i suoi pensieri sono più alti dei nostri, come i cieli sono al di sopra della terra. Quindi stiamo molto attenti, quando consideriamo Dio, dobbiamo considerare veramente che Lui è il creatore di tutte le cose. Ora, se non cade a terra un passero senza il volere di Dio, ma può essere mai che Adamo sia caduto senza il volere di Dio? Vi faccio questa domanda, una semplice domanda. Allora, noi crediamo che Dio regna, che Dio fa tutto ciò che gli piace in cielo, in terra, nei mari, negli abissi, per cui noi non ci meravigliamo e non ci scandalizziamo neppure nel sapere che il Dio aveva previsto anche la disubbidienza di Adamo. Quindi vedete, la disubbidienza di Adamo va vista con gli occhi di Dio, perché oggi molti, quando appunto leggono la Genesi e arrivano alla disubbidienza di Adamo, cominciano a fare veramente tanti ragionamenti strani, ma io parlo di persone che si dicono cristiane, ma fanno dei ragionamenti vani, contorti, assurdi. Ma questo perché? Perché non credono che Dio regna. Sì, è vero, cantano, Dio regna, poi però nei fatti non ci credono che Dio regna. Ma sapete quanti nelle loro preghiere dicono, Signore, tu regni, no? Nei canti, poi però nella vita quotidiana non credono assolutamente che Dio regni. Allora, la Sacra Scrittura dice che da Dio dipende chi erra e chi fa errare, eh? Chi viene sedotto e chi seduce. Questo naturalmente molti non lo sanno, ma noi lo sappiamo per la grazia di Dio. Allora, voglio dire, la seduzione di cui fu, diciamo, vittima Eva, perché ricordiamoci che non fu l'uomo ad essere sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Infatti la scrittura dice che il serpente sedusse Eva con la sua astuzia. Ora, quella seduzione dipese da Dio, per forza. Faccio un'altra domanda. Ma voi non credete che Dio avrebbe potuto impedire che Eva rimanesse sedotta? Io credo che appunto Dio ha, diciamo, tutto il potere per impedire qualsiasi cosa, però non l'ha impedito. Perché non l'ha impedito? Perché faceva parte, diciamo, quello appunto che avvenne nel giardino dell'Eden, faceva parte del piano di Dio. Perché Dio non impedì che Gesù fosse ucciso dai giudei? Ma perché Dio aveva innanzi determinato che avvenisse ciò per la nostra salvezza, per la nostra giustificazione, per la nostra riconciliazione con Dio. Comprendete? Dunque, veniamo a quello che avvenne nel giardino dell'Eden, perché dobbiamo parlare della disubbidienza di Adamo. No, infatti vedete che l'Apostolo Paolo non parla solo dell'ubbidienza del figliuolo di Dio, ma parla anche della disubbidienza del primo uomo, cioè di Adamo. Allora, l'Apostolo Paolo, appunto, vi stavo dicendo, dice che la donna, allora dice così, Adamo fu formato il primo, poi Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Dunque, noi sappiamo che il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, la donna prese del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, ne mangiò, e che fece poi? Ne mangiò e ne dette anche al suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora, Dio aveva dato un ordine ad Adamo, questo ordine era un ordine molto chiaro: mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Dunque, c'era un ordine che Dio aveva dato ad Adamo. Adamo disubbidì a quell'ordine, peccò. E appunto, mediante questa disubbidienza, il peccato è entrato nel mondo. Allora, fratelli, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Voglio rileggere queste parole, perché sapete, tante volte si rischia di leggere, ma questo non è solo un rischio, ma talvolta avviene, si leggono le parole della scrittura senza porvi mente, invece bisogna porvi attenzione. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo: siccome per la disubbidienza di un solo uomo in molti sono stati costituiti peccatori. Dunque, in virtù di quella disubbidienza di Adamo, che naturalmente fu un atto riprovevole, qui non stiamo giustificando né il peccato e neppure il peccatore, stiamo solo, diciamo, parlando della disubbidienza di Adamo, come bisogna parlarne? Allora, alla luce delle Sacre Scritture, sempre alla luce delle Sacre Scritture, la parola di Dio è verità. Allora dice, siccome per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori. Ora, Ora riflettete a questo. Noi siamo stati costituiti giusti per l'ubbidienza di Cristo Gesù. Ma noi eravamo peccatori prima di essere costituiti giusti. Allora, perché eravamo peccatori? Eravamo peccatori in virtù della disubbidienza di Adamo. Perché è stato tramite quella disubbidienza che gli uomini sono stati costituiti peccatori. Notate cosa dice la scrittura? Costituiti peccatori. E chi li ha costituiti peccatori? Il Dio. Dunque, noi oggi giustamente diciamo che eravamo peccatori e adesso siamo giusti. Ossia, eravamo prima servi del peccato, perché i peccatori sono servi del peccato, ma ora siamo giusti in quanto siamo giustificati, siamo servi della giustizia, perché siamo diventati servi della giustizia, mediante la fede nell'Evangelo. Siamo stati affrancati dal peccato e resi servi della giustizia. Ecco perché non possiamo dire, quando evangelizziamo, siamo tutti peccatori. No, fratelli nel Signore, eravamo peccatori, eravamo servi del peccato. Se voi dite che siete dei peccatori, state dicendo che siete ancora servi del peccato, che non siete servi della giustizia. Perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Se siete schiavi del peccato, non siete servi della giustizia. Se non siete servi della giustizia, vuol dire che non siete salvati. Allora smettete di dire siamo tutti peccatori. Il fatto che, diciamo, noi non possiamo dire di essere senza peccato, non è che ci rende peccatori. Attenzione, attenzione, fratelli del Signore. Noi siamo stati costituiti giusti. Il peccato che una volta ci signoreggiava, ci dominava, ora non ci domina più. Questa è la verità, perché siamo stati affrancati dal peccato e appunto siamo stati fatti diventare servi della giustizia. Quindi eravamo peccatori, ma il Signore ci ha liberato dai nostri peccati, ci ha costituiti giusti. Allora torniamo a questo: costituiti peccatori. Allora, i molti sono stati costituiti peccatori, quindi gli uomini, quando noi diciamo tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, quindi tutti sono peccatori, ma perché? Perché sono stati costituiti peccatori per la disubbidienza del primo uomo, che il primo uomo, dice l'apostolo Paolo, è il tipo di colui che doveva venire. Sì, perché Gesù Cristo doveva venire. Non è poteva venire, no, doveva venire, ma doveva venire perché era stato preordinato prima della fondazione del mondo a venire in questo mondo per salvare il mondo, capite? Dunque, è qualcosa questo da tenere sempre presente, che per la disubbidienza di Adamo, quindi un solo uomo, i molti sono stati costituiti peccatori. Cioè, queste parole qua sono molto importanti, fratelli nel Signore, perché gli uomini non sono peccatori perché hanno scelto loro di essere peccatori. Loro peccano naturalmente perché vogliono peccare, ma loro sono peccatori perché sono stati costituiti peccatori per la disubbidienza di Adamo. Per la disubbidienza di un solo uomo. Pensate, per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori. Un solo uomo, una sola disubbidienza. Guardate un po' voi che cosa è avvenuto. Ma faceva parte tutto del piano di Dio, perché la scrittura dice Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Ma non è che è venuto Gesù per salvare i peccatori, perché, diciamo, questa sua venuta faceva parte del piano B, no? Non del piano A, no? Perché il piano A, sapete, oggi si parla del piano A, piano B, piano C. Comunque, alcuni pensano che la venuta di Cristo Gesù nel mondo per salvare i peccatori sia il piano B di Dio. No. La venuta di Cristo, il figliolo di Dio nel mondo per salvare i peccatori, fa parte del piano di Dio. Esiste solo un piano. E questo piano, naturalmente, di questo piano faceva parte anche la disubbidienza di Adamo affinché i molti fossero costituiti peccatori. Quindi, prima gli uomini dovevano essere costituiti peccatori e naturalmente Dio ha pensato di costituirli peccatori mediante la disubbidienza di un solo uomo, cioè Adamo, e poi dopo, naturalmente, tutto ciò doveva essere, diciamo, seguito dall'ubbidienza di un solo uomo, Gesù Cristo, per mezzo della quale molti sarebbero stati costituiti giusti. E noi siamo tra coloro che per la grazia di Dio, ripeto, per la grazia di Dio, sono stati costituiti giusti. Vedete dunque, fratelli, che il piano di Dio è meraviglioso? Quanto è meraviglioso il nostro Dio, eh? Quanto è meraviglioso il nostro Dio, è veramente meraviglioso. Dio fa cose meravigliose, fa cose gloriose. Quindi, tutte le cose, dice bene l'Apostolo Paolo quando dice tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Dunque, il Dio prima della fondazione del mondo aveva fatto questo meraviglioso piano. E allora ecco che arriva il momento in cui poi crea i cieli, la terra, tutte le cose che sono in essi. Poi naturalmente sappiamo che Dio ha creato l'uomo e poi ha formato, diciamo, ha formato l'uomo dalla polvere della terra, poi ha formato la donna. La donna da una costola, no? Da una costola che il Signore trasse fuori dal corpo dell'uomo. Ebbene, da questa, diciamo, coppia poi sono venuti appunto poi tutti gli uomini che sono sulla faccia della terra. E quindi Dio praticamente poi ha stabilito i confini, le epoche delle nazioni, perché gli uomini poi si sono, diciamo, sparsi per la faccia della terra, e naturalmente Dio ha scelto tra i popoli sulla faccia della terra un popolo, il popolo di Israele, il popolo di Israele che noi sappiamo che infatti il Signore chiamò Abramo fuori da Ur dei Caldei, e poi per portarlo nella terra, no? Per dargli in eredità la terra di Canaan. E poi il Signore, diciamo, scelse il figlio di Abramo, Isacco, no? Per fare il patto con lui, e poi scelse Giacobbe, no? Uno dei figli di Isacco. E poi da Giacobbe sono discesi i 12 patriarchi, 12 tribù, le 12 tribù di Israele. E da una di queste tribù, precisamente la tribù di Giuda, il Dio ha fatto sorgere, no? Ha suscitato il Cristo, l'unto, del quale aveva preannunziato la venuta tramite i suoi profeti. Dunque, avete compreso Dio perché ha creato il mondo? Perché poi, appunto, ha chiamato Abramo fuori da Ur dei Caldei e così? Perché doveva venire nel mondo il suo Cristo. Vedete come Dio è partito da lontano, anzi da lontanissimo, vorrei dire, affinché nella pienezza dei tempi venisse nel mondo il suo Cristo, cioè il suo unto, e compisse quello che il Padre gli aveva ordinato, cioè doveva morire per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Vedete? Il piano di Dio, fratelli? Quindi noi siamo il popolo del Signore. Siamo il popolo del Signore in virtù dell'ubbidienza di Cristo di Cristo Gesù. E noi siamo veramente grati al Signore di poterlo proclamare al mondo tutto ciò, e anche di poterlo, diciamo, spiegarlo ai santi, perché noi riteniamo che veramente il Dio debba essere glorificato, celebrato, magnificato, esaltato per la sua sapienza, non solamente per la sua bontà, per la sua fedeltà, per la sua misericordia, per il suo amore, ma anche per la sua sapienza, perché la sapienza di Dio è grande. E quando appunto noi consideriamo il piano che Dio ha formato in se stesso, diciamo: ma Signore, ma tu sei veramente savio, tu sei veramente savio. Ma poi, se voi considerate anche la legge di Mosè che Dio diede al popolo di Israele dopo che lo trasse fuori dal paese d'Egitto, no? Uscito dal paese d'Egitto, che anche questa era stata prestabilita da Dio, considerate anche la legge, le ombre che contiene, perché la legge ha un'ombra delle cose a venire. Per esempio, i sacrifici per il peccato che venivano offerti, no? Che praticamente adombravano, preannunziavano il sacrificio di Cristo Gesù, che avrebbe compiuto nella pienezza dei tempi, perché i sacrifici per il peccato offerti sotto la legge non cancellavano i peccati dalla coscienza degli adoratori, perché è impossibile che sangue di tori e di becchi tolga i peccati. C'era bisogno veramente di un sacrificio per il peccato migliore, c'era bisogno di un sangue migliore, c'era bisogno del sacrificio di Cristo, c'era bisogno dello spargimento del suo sangue. Ma vedete, Dio l'aveva adombrato nella legge anche questo, vedete, la sapienza di Dio. Poi nella pienezza dei tempi, naturalmente, con la venuta di Cristo Gesù, quello che era ombra poi chiaramente è diventato realtà, perché noi abbiamo la realtà delle cose, noi abbiamo il sangue prezioso di Cristo Gesù che ci purifica da ogni peccato, Noi abbiamo il suo sacrificio che è stato compiuto una volta per sempre affinché noi fossimo santificati. Vedete, fratelli, tutto questo fa parte del piano di Dio, ma naturalmente il tempo verrebbe meno poi, il tempo verrebbe meno se dovessi poi parlare del fatto che i giudei non l'hanno ricevuto, no? È venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, anche questo, non hanno creduto che lui era il Cristo, ma anche questo è avvenuto affinché si adempisse ciò che Dio aveva preannunciato, perché i giudei erano stati, sono destinati ad intoppare nella parola. Per quale ragione? Affinché la salvezza giungesse a noi gentili, perché prima doveva essere annunziata ai giudei e poi naturalmente per la loro caduta la salvezza doveva giungere ai gentili per provocare i giudei a gelosia. Vedete, anche questo era stato tutto preannunciato dal Signore. Infatti poi la salvezza tramite gli apostoli ha cominciato ad essere annunziata anche ai gentili, e la salvezza in Cristo Gesù sarà annunziata a tutto il mondo, perché l'Evangelo sarà annunziato a tutto il mondo. E allora verrà la fine. E allora verrà la fine. Vedete, fratelli, quando si parla del piano di Dio, si parla veramente di qualcosa di meraviglioso, che ci fa rallegrare sommamente a noi. E quello che, diciamo, dispiace oggi è vedere che molti non conoscono il piano di Dio, non lo conoscono, non conoscono neppure l'Evangelo molti. Molti non conoscono, non sanno cosa sia l'Evangelo, non lo sanno. Io lo ribadisco per l'ennesima volta, ci sono moltissimi evangelici che non sanno cosa sia l'Evangelo. Non lo sanno. Non lo sanno. Tempo fa mi ha chiamato qualcuno al telefono e praticamente si è presentato come un credente, come un fratello. Io con calma gli rispondo, gli parlo e naturalmente mi accerto che abbia creduto nell'Evangelo. E allora gli dico, hai creduto nell'Evangelo? Sì. Allora gli dico, sai cos'è l'Evangelo? E mi ha detto, l'Evangelo è la Bibbia. No, mi ha detto, calma, l'Evangelo non è la Bibbia. No, perché se definiamo l'Evangelo la Bibbia, significa che praticamente l'Evangelo che noi dobbiamo annunziare agli uomini, praticamente inizia con nel principio Dio creò i cieli e la terra e finisce con, adesso leggiamo le ultime parole dell'Apocalisse, la grazia del Signore Gesù sia con tutti. Cioè, questo significherebbe che annunziare l'Evangelo significherebbe annunciare proprio tutti i 66 libri della Bibbia, ma tutti, tutte le parole che sono scritte. E quanto ci vuole? E quanto ci vuole per annunciare a un'anima appunto l'Evangelo, se l'Evangelo fosse la Bibbia? Cioè, fate voi, giudicate voi da persone intelligenti. Allora, perché vi ho raccontato, naturalmente dopo vi ho spiegato cos'è l'Evangelo, lui mi ha detto che ci credeva, ma perché vi ho raccontato questo? Per farvi capire la profonda ignoranza che c'è nelle chiese, non viene spiegato cos'è l'Evangelo. Alcuni per Evangelo proprio intendono la Bibbia, alcuni quando dicono io credo nell'Evangelo, sapete cosa vogliono dire? Io credo nella Bibbia. E quando dicono io credo nella Bibbia vogliono dire io credo nell'Evangelo, ma non è così, fratelli nel Signore. L'Evangelo è un messaggio ben specifico che l'Apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo ed è questo, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, apparve a Cefa, poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto verrà per fede. Questo è l'Evangelo che Cristo Gesù ha comandato di predicare. Questo è l'Evangelo che annunziavano gli apostoli, quindi non solo l'Apostolo Paolo, apostolo dei gentili in fede e in verità. Questo è l'Evangelo, la buona novella, credendo nel quale l'uomo viene salvato, giustificato, perdonato, riconciliato con Dio ed ottiene la vita eterna. Vedete, c'è molta ignoranza nelle chiese. C'è molta ignoranza, quindi vi stavo dicendo, non conoscono cos'è l'Evangelo, pensate se conoscono il piano di Dio, il piano che Dio ha formato in se stesso, che per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, nel Signore nostro Gesù Cristo, cioè sono veramente in una grande ignoranza molti, credetemi, a me dispiace, io non mi rallegro nel vedere l'ignoranza veramente così profonda che esiste nell'ambiente evangelico, ne devo prendere atto. Io sono rattristato a tutto questo, ho fatto sempre di tutto per fare conoscere, alla Chiesa sia l'Evangelo che la dottrina di Dio, lo continuerò a fare fino alla fine, però devo prendere atto che, questa ignoranza che c'è mi produce del dolore, ma comunque. Anche questa ignoranza fa parte del piano di Dio, sapete, c'è un piano di Dio veramente che noi talvolta non vediamo, ma fratelli sappiate che veramente il piano di Dio, considerate che il piano di Dio comprende anche l'apostasia che ancora deve venire, anche l'apostasia, come anche la manifestazione dell'uomo del peccato, quindi qui non stiamo parlando di qualcosa che, c'è, ma che Dio non aveva preordinato. No, anche questo, fa parte del piano di Dio, d'altronde è scritto, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza e queste, E queste parole si adempiono, e queste parole si adempiono tuttora, si devono adempiere ancora oggi. Comunque, per quanto sta in me, farò di tutto con l'aiuto che viene da Dio, appunto, di fare uscire, diciamo, i credenti dall'ignoranza, quei credenti che sono nell'ignoranza, di farli uscire dall'ignoranza. E ringrazio il Signore naturalmente per tutti coloro che il Signore già veramente ha tratto fuori da questa ignoranza e gli ha fatto conoscere l'Evangelo, gli ha fatto conoscere la dottrina. Quindi vi stavo dicendo, quando parliamo del piano di Dio, parliamo veramente di un piano meraviglioso. Noi quando contempliamo questo piano, perché questo piano veramente si fa contemplare, avete presente quando, per esempio, andiamo in un luogo, diciamo, molto bello, dove contempliamo un panorama molto bello? Ebbene, quando noi appunto ci mettiamo davanti al piano di Dio, stiamo contemplando una meraviglia, e noi appunto siamo in questo piano di Dio, perché? Perché il Dio ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. Quindi il Signore ci ha scelti prima della fondazione del mondo affinché noi fossimo costituiti giusti, affinché noi fossimo giustificati. Ecco perché poi è arrivato il giorno nel quale noi abbiamo creduto nell'Evangelo, perché il Dio ci aveva eletti prima della fondazione del mondo. Vedete dunque, prima della fondazione del mondo il figliolo di Dio è stato ben preordinato ad essere offerto in sacrificio a Dio per i nostri peccati. E prima della fondazione del mondo noi appunto siamo stati eletti in Cristo, eletti in Cristo ad essere costituiti giusti. Quindi vedete, quello che ci è avvenuto è qualcosa che Dio aveva innanzi determinato. Anche questo non vi pare una meraviglia? E qualcuno dirà, ma com'è possibile che Dio, prima della fondazione del mondo, quando ancora non esisteva, diciamo, nulla, non esisteva il mondo, ma com'è possibile che il Signore ci abbia eletti in Cristo? Ma Egli è Dio. Egli non è un uomo come noi, Egli è Dio. Le cose impossibili agli uomini, lo sapete, no? Sono possibili a Dio. Talvolta queste parole si citano veramente senza rendersi conto veramente di quello che si dice. Le cose impossibili agli uomini. Quante cose impossibili agli uomini ci sono? Tantissime. Però sono possibili a Dio. E allora noi naturalmente davanti a questo piano rimaniamo meravigliati, alziamo gli occhi al cielo e diciamo: Signore, tu sei grande, tu sei veramente grande, non comprendiamo tutto quello che tu fai, ma crediamo in quello che tu fai, perché vedete, l'opera di Dio è perfetta, è perfetta, no, l'opera di Dio non è che si può capire dall'inizio alla fine, no, quello non c'è dato di capire dall'inizio alla fine tutta l'opera di Dio, no, fratelli nel Signore, però una cosa è certa, l'opera di Dio è perfetta, e a me basta sapere che l'opera di Dio è perfetta per rallegrarmi, e io mi rallegro, sono felice nel Signore, perché il piano di Dio è quello che sussiste. Avete notato? Il piano di Dio è quello che sussiste, fratelli e signori, ancora oggi ci sono coloro che vengono da Dio costituiti giusti. Sì, erano peccatori, ma il Signore poi li costituisce giusti, in virtù appunto del proponimento dell'elezione di Dio, che non dipende dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Quindi vedete, il Signore che cosa ha fatto, fratello del Signore? Ha fatto tutto Lui. Noi alla fine noi alla fine ci ritroviamo veramente a considerare la sua maestà e davanti veramente alla sua maestà, alla sua gloria, ci rendiamo conto di essere veramente nulla al suo cospetto, di essere veramente polvere e cenere, di essere veramente come un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Veramente ci rendiamo conto di essere veramente niente, ma anche ci rendiamo conto di essere per la grazia di Dio, figlioli di Dio. Figlioli di Dio, fratelli, sì. Lui ci ha generati di sua volontà, mediante la parola di verità, affinché noi fossimo in un certo modo le primizie delle sue creature. Da un lato quindi riconosciamo che siamo niente, perché che cosa siamo? Siamo un po' di polvere, siamo un po' di polvere. Infatti basta considerare poi quando moriamo cosa diventiamo? Polvere. Torniamo ad essere polvere. Però dall'altro, vedete, considerando veramente il suo amore, diciamo, Signore, grazie. Signore, grazie perché ci hai dato di essere chiamati tuoi figlioli. Grazie per aver mandato lo spirito del tuo figliuolo nei nostri cuori che grida Abba Padre. Siamo figlioli di Dio. Il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui, ma noi siamo figlioli di Dio. Salvati, giustificati, santificati, perdonati, abbiamo la vita eterna, abbiamo la certezza che quando appunto arriverà il nostro momento, alla fine del corso, il Signore ci salverà nel suo regno celeste. Che dire, fratelli nel Signore, il piano di Dio è meraviglioso, continuiamo ad avere fede in Lui. Serviamo la fede fino alla fine, come appunto la serbò l'Apostolo Paolo, affinché veramente il Signore ci salvi nel suo regno celeste. Io sono grato al Signore per l'intelligenza che mi ha dato, perché riconosco veramente che non avrei mai potuto capire, comprendere ciò che ho compreso veramente se il Signore non mi avesse dato intelligenza, e io veramente gli sono grato per l'intelligenza che mi ha donato, che posso appunto trasmettere a voi e a tanti altri. Tutto questo per la grazia di Dio, che come diceva l'Apostolo Paolo, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. È per questo che appunto siamo chiamati a rimanere umili, a non insuperbirci, perché tutto quello che noi abbiamo, tutto quello che possiamo fare, lo possiamo fare. E lo siamo per la grazia di Dio, per il suo immeritato favore. Come per il suo immeritato favore noi siamo stati costituiti giusti. Rallegramoci dunque, fratelli nel Signore, diamo a Dio la gloria, perché per l'ubbidienza di uno solo, cioè Gesù Cristo, siamo stati costituiti giusti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.